I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Italian Podcast Network presenta Fatality. Videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questo nuovo episodio short di questo nostro fantastico podcast. Vi do immediatamente i riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it. Dietrologia Videoludica lo trovate su Google Plus e su Facebook. Soprattutto fate mi piace e seguite, ma soprattutto su iTunes, dove potete tranquillamente abbonarvi per scaricare tutti i nostri episodi, tanto è gratis, e fate una bella recensione con tante stelline aggregate che ci fa sempre piacere. @videoludo è il nostro podcast, mentre dietrologia videoludica @gmail.com è la nostra posta elettronica. Detto questo, vi presento il mio compagno di viaggio per questo piccolo short, che è, ci torna a trovare, Cristiano Caliendo. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Dietrologia. Io vorrei dire che Pizzi sei una brutta persona, perché no, ti spiego, perché tu mi stai chiamando in tutte le puntate di Dietrologia Videoludica per poi poter dire, per quando magari un giorno dovesse finire la trasmissione, ecco, l'ultima l'hai fatta tu, Caliendo, quindi sei stato tu a distruggere la trasmissione. Dai, per questo. Ma è perché serve per avvallare il, cioè, nel senso, a noi ci serve come pretesto, perché adesso il pubblico ci non ci può più chiedere perché finisce Dietrologia Videoludica. Ma io ti voglio anche dire un piccolo twist: non sono io, ma la combo Caliendo Santilio che porta alla distruzione. Da solo nel mentre pensa che questa sera sempre negli studi di IPN stanno proprio Santilio e Peppe Saso registrando uno short dell'Occhio del Beholder, quindi insomma grande. Sapete che anche l'Occhio del Beholder sta facendo i suoi short, ogni tanto andate a mettere un'occhiatina anche lì, chissà se faremo uno short anche di Calavera Caffè, Cristiano. Forse uno short, forse più che uno short, proprio un episodio. Proprio un episodio, forse ci scappa. Proprio di lusso, ragazzi. Sì, di lusso. Sì, sì, sì. Va bene, allora, argomento abbastanza interessante, quindi entriamo subito nell'osservatorio. Osservatorio Dietro Ludico. Allora, perché ho deciso ho chiesto gentilmente a Cristiano di partecipare a questa trasmissione? Io volevo fare alcune riflessioni che in realtà avevo già accennato in diverse puntate di Dietrologia Videoludica, ma siccome che nessuno mi è venuto dietro, mi ha seguito, mi ha dato soddisfazione, vedo se ho cercato qualcuno che forse aggancia il lavoro sporco, diciamo, il concetto di quello che voglio esprimere, sebbene e può sembrare un argomento un po' da Calavera Caffè, ma noi cercheremo di allargarlo, diciamo, per quello che è ovviamente la tradizione di Dietrologia Videoludica. Poi in alcuni specifici casi probabilmente poi lo riapprofondiremo anche sul nostro podcast Calavera Caffè, appunto quello delle avventure grafiche, che è ovviamente il podcast che facciamo insieme a adventureplanet.it, anzi facciamo insieme, è il loro podcast, quindi noi siamo umili sudditi, come si dice, insomma, giusto? Beh sì, anche oldgamesitalia.net, così ho visto che abbiamo fatto 30 e Games Italia pure, è vero. Anche, tra l'altro, anche questa trasmissione di Dietrologia Videoludica mi ero proprio scordato che oldgamesitalia.net insieme a Retrocast sono i coproduttori per quanto riguarda il discorso di Italian Podcast Network. Ma entriamo nel tema. Allora, Cristiano, dall'epoca così, cioè faccio pure un salto temporale un po' ardito, a dirti il vero, perché da, per esempio, dall'epoca di Shim New, da Indigo Prophecy, quindi Fahrenheit, ed altri, si è aperto quello che possiamo considerare una sorta di nuovo filone videoludico profondamente basato sulla narrazione, quindi con una narrativa estremamente guidata. Secondo te questo è un fenomeno che si sta consolidando negli ultimi anni, oppure è un momento, diciamo, dove c'è questa particolare moda che però presto magari andrà a svanire o a ridimensionarsi? Ma io forse questa cosa un pochino l'avevo accennata nell'ultima puntata di Dietrologia, però nessuno me l'è venuto dietro. Vedi, non ci vengono dietro. E quello è il problema, dobbiamo farlo da noi. No, però ecco, secondo me tutti i generi, quindi anche tutti i sottogeneri, è difficile che muoiano. Cioè, si era detto sta cosa, ti ricordi, forse per i picchiaduro, per i platform, poi in un certo modo si sono sempre tutti strariciclati. L'ho detto per gli strategici in tempo reale, poi sono arrivati i giochi su mobile, sono un po' risorti lì. Secondo me, come anche avevo detto nell'altra puntata, c'è il problema che forse il pubblico si muove un pochino in branco. Cioè, certe volte ci sono delle cose che vanno un po' più di moda rispetto ad altre. Per esempio questa cosa di questi giochi molto guidati narrativamente è una cosa sicuramente esplosa negli ultimi anni. In realtà successivamente anche a roba, le prime cose che hanno fatto, come si chiama, la casa di la Quantic Dream, mi sembra, quella di David Cage. Sì. Però ecco, adesso che siamo arrivati a questo punto, secondo me il momento, in questo momento è forte il genere, il sottogenere. Potrebbe ridimensionarsi nel momento in cui arriva qualcosa di nuovo e quindi il branco si sposta, però svanire no. Cioè, secondo me ormai già in passato ci aveva qualcuno provato in maniera magari un po' più timida, magari un po' meno di successo e tutto quanto. Secondo me il genere non può morire, così come non sono morti gli altri, insomma. Quindi può andare avanti, bisogna solo vedere se riuscirà se andrà avanti. Probabilmente se andrà avanti sempre in questo stesso modo potrebbe stancare e quindi arriveranno magari meno prodotti o fatti meno bene. Se no, probabilmente se si cerca di... non so se ci sono margini di miglioramento, probabilmente sì, si andrà avanti per qualche annetto ancora, forse, penso, no? Beh, poi in realtà è vero, voglio dire, che come tutte quante le situazioni o i generi o comunque una qualsiasi cosa in generale, nel suo percorso di evoluzione c'è sempre comunque una fase di assestamento, una botta di qua, una botta di là, e facendosi spazio e cercando di trovare poi anche magari una propria conformazione, che poi non sarà neanche mai comunque definitiva, perché comunque c'è magari lo sviluppatore che intende il gioco narrativamente guidato in una certa maniera e chi lo intende in un'altra, perché ovviamente abbiamo visto esperimenti interessanti, come può essere The Arrester, che è addirittura un'estremizzazione, no? Di questo concetto, perché arriviamo anche addirittura al punto di quasi non fare niente fondamentalmente, o addirittura fallimenti come The Order, che insomma fondamentalmente è un capolavoro dal punto di vista estetico, quasi un raggiungimento top per quanto riguarda la parte grafica, ma non solo, soprattutto fotografica, che è una cosa importante, perché l'utilizzo delle luci in quel gioco è veramente un capolavoro, ma dove il gioco a quel punto è sempre estremamente guidato narrativamente, ma non è più né esplorativo né avventura, ma è addirittura uno sparatutto, che però poi alla fine non ha saputo neanche darci niente, insomma. Quindi poi il rischio di questi giochi guidati, insomma, è che ancora sono veramente un po' in fase di evoluzione, no? Sì, ma guarda, io posso esprimere una cosa mia personale, cioè è come se per quanto mi riguarda è come se questo genere fosse sempre stato nell'aria, diciamo, e fosse stato il mio genere preferito ancora prima da che venisse fuori. È vero, guarda, io su questa cosa sono in totale sintonia con te. Perché sai, noi l'abbiamo forse detto nella puntata di Zach di Calavera, cioè, esatto, quando io vidi la possibilità, perché è stata la mia prima avventura grafica, vabbè, faccio un piccolo recap. E quindi niente, quando lo vidi, quell'epifania che ebbi famosa, che poi ci abbiamo pure scherzato, era perché io interpretavo un personaggio all'interno di un cartone, cioè perché vabbè, poi insomma mi sembrava un cartone all'epoca, ed era quello il bello, cioè il fatto di stare all'interno della storia. Non è che mi interessava tanto l'enigma, capito? Non so se mi spiego, cioè non è che era bello interagire, fare questo, fare quello, però mi interessava proprio il fatto di stare dentro la storia senza avere un gameplay limitato solo che ti devi assaltare, a sparare, no? Queste cose qui. Tant'è che ti dico anche un'altra cosa, forse non l'ho mai detta. Uno dei miei forse 5 giochi preferiti su Commodore 64, avrò giocato quando avevo 6-7 anni, tipo, era un'avventura. Non era un'avventura testuale, era un RPG testuale che si chiama Avventura 1. Non so se è presente. Mm-hmm. Praticamente no. Era una delle poche cose che c'erano in italiano su Commodore 64. E niente, non mi piace. Non è che mi interessava tanto l'aspetto RPG del gioco, eh. Cioè, mi interessava il fatto che veramente stavi lì a leggere di questo che andava in giro a prendere gli incarichi nei posti. Poi si aggiungeva alle carovane. Mi piaceva un casino. Mi piaceva proprio il fatto di leggere, capito? Cioè, di stare lì a vivere la storia. E poi in realtà io ci ho giocato di recente, l'ho finito in mezz'ora, è molto molto limitato il gioco, però all'epoca mi sembrava una cosa, sai, spettacolare. Clamorosa, sì, certo. Sì, è perché comunque è proprio questo fatto di entrare nella storia. Adesso mi sembra che poi dopo ci arriviamo sul discorso registico eccetera, però in realtà secondo me solo negli ultimi anni si sta scoprendo che il videogioco finora è stato veramente molto, cioè ci sono veramente un sacco di territori non esplorati dal punto di vista narrativo proprio, che al di là del gameplay proprio, perché cioè se tu io ogni tanto ci penso, dico se vuoi fare un film, oppure se vuoi pensare a una sceneggiatura, pensi al cinema, no? Ci sono, è stato fatto tutto, quasi tutto, ecco perché poi si parla sempre di originalità che manca, no? Le solite cose, però se pensi ai videogiochi, quante cose non sono state fatte? Cioè infinità, cioè è proprio limitatissimo. Sì, certo. Cioè non c'è stato fatto quasi niente, e perché? Non c'è un motivo, cioè forse siamo rimasti forse troppo incastrati per troppi anni a una sola ramificazione del videogioco, perché poi hanno tutti uguale dignità di esistere, per carità, dico solo che forse soltanto adesso si sta scoprendo che l'interazione, che è la peculiarità del videogioco, anche se qualche tempo fa quando dicevi una cosa del genere ti saltavano tutte la gola, dicevano oh, non è vero, è il divertimento la cosa più importante del videogioco, no, l'interazione, e poi il divertimento è poi sempre non è manco un elemento, no, ma è anche un fattore soggettivo, no, nel senso sì. Comunque non è che io mi diverto a giocare a Monkey Island, altri a squartare i cristiani, cioè esatto. Nel senso, no, il discorso era che forse non vedevano nell'interazione un mezzo per raccontare in maniera ancora più efficace, perché, certo. Perché il cinema alcune cose le dice meglio di un romanzo, perché c'ha, che ti devo dire, il montaggio, no? Che ha la peculiarità, e quindi ecco, allora perché non possiamo usare anche l'interazione del videogioco per dire una cosa meglio rispetto a un racconto, una cosa? Cioè, è ovvio, no? Questa è una ramificazione, non è devono essere tutti così i videogiochi, questo perché. Ma infatti secondo me oggi usciti o che si sta uscendo timidamente verso appunto l'esplorazione, anche perché l'hardware oggi magari te lo consente, no? Cioè nel senso, una volta comunque più dello sprite che si muoveva e sparava ai mostri che scendevano, insomma, diciamo, non è che si poteva fare, no? Quindi si facevano bellissime cose con quelli che erano le possibilità. Oggi, secondo me, è nata un'esplorazione. Già il termine videogioco in sé, secondo me, prima o poi è un termine, come posso dire, forse potrebbe diventare desueto. Io a questo punto andrei comunque al, perché poi dopo ne parliamo magari anche proprio nel finale di questo tipo di discorso, e andrei al secondo punto, perché è capitato, c'è capitato a noi anche su Calavera o comunque andando a vedere sui vari forum, che una delle tante discussioni su certi giochi, soprattutto ovviamente i giochi profondamente guidati narrativamente, se questi giochi potessero essere appunto considerati giochi, ma a noi di questo discorso in realtà ce ne frega poco. Invece io ho notato, e non so se tu sei d'accordo, questo io già l'ho detto in IVL, che ci sono alcune case, magari quelle che vivono il mercato dell'intrattenimento un po' più a largo campo, che sono invece interessate alla costruzione di un sottogenere che sia veramente una sorta di compromesso o più che altro metà strada tra TV, che è intrattenimento tradizionale, e intrattenimento, diciamo, interattivo, che è invece questo nuovo approccio che insomma è più simile al videoludico, diciamo così. Ecco, secondo te c'è comunque in effetti l'interesse non soltanto da parte degli sviluppatori ma anche da parte dei produttori? Cioè, tu dici proprio di fare una cosa che non sia né un videogioco né una serie televisiva, che sia via di mezzo, cioè proprio un genere completamente, un medium nuovo quasi? Beh, in realtà quello che poi, anche se secondo me con ancora grossi margini di miglioramento, è quello che stanno facendo Telltale oppure i produttori di Life is Strange, che insomma, no? In particolare quest'ultimo, concettualmente, visivamente e dal punto di vista proprio del ritmo anche narrativo o della concezione dell'inquadratura, dell'utilizzo anche del linguaggio visivo, roba del genere, è molto sbilanciato, no? Va verso quel tipo di compromesso, e secondo me sono case come Sony che non a caso ha puntato molto, forse fallendo e magari sbagliando, su The Order, ma sta puntando molto su Life is Strange, sta puntando molto su Until Dawn, ha puntato molto sui giochi di Quantic Dream, quindi ci ha proprio investito di suo, perché dice: io in realtà sì, sono un produttore di console e distributore di videogiochi, però fondamentalmente io vendo anche i televisori, vendo anche comunque intrattenimento a largo campo. Quindi creare questa sorta di nuovo sottogenere che avvicini un pubblico diverso, che non sia strettamente, perché secondo me c'è tanta gente che magari può essere interessata, che però dal videogioco in sé, dal It's for the Player, è spaventata, no? Magari, cioè, nel senso, cioè io non so buono a giocare, no? Sì, nel senso, sì. Tu che ne dici? Ma secondo me, cioè, come hai detto tu prima, forse sicuramente la tecnologia l'ha permesso, si è potuto esplorare questa strada televisiva, perché poi in effetti se non hai la grafica non puoi fare l'inquadratura credibile o l'animazione, eccetera. Io questa cosa la notavo proprio, cioè mentre Heavy Rain forse c'è ancora, che è l'ultimo che ho giocato della Quantic, perché poi quello successivo non l'ho ancora giocato, forse aveva ancora forse un piglio più, il tentativo di un piglio più cinematografico e televisivo, però ad ogni modo, a parte questo, quello che notavo in The Walking Dead della Telltale era proprio che avevano gestito la regia in maniera fra virgolette innovativa per un videogioco. Cioè, forse non molti l'hanno notato, ed è una cosa buona, perché significa che se non lo noti, la cosa vuol dire che è fluida e che la riesci a, sì, che ha funzionato, a seguire meglio, esatto. Però notavo che avevano veramente un'attenzione ma fuori dal comune, ma nemmeno su evidenza questa cosa, alle espressioni, al tipo di ritmo del dialogo, cioè alle pause, queste cose qui, le accelerazioni, al tipo di l'inquadratura più o meno era semplice, però sai, questa tendenza a spezzare il ritmo, a fare un'espressione anche senza parlare, sai, cioè inquadrare un'espressione e basta, no? Però non quelle cose là che tu dici: ha fatto un'espressione comica a far ridere, no, proprio un'espressione che ti dice, che ti dica qualcosa, che ci sia qualcosa dietro, non lo so, più profonda. C'era proprio un lavoro di questo tipo nel The Walking Dead che io non avevo visto prima in altri giochi. Però vabbè, sarò anche un po' limitato perché appunto il discorso Sony console non lo seguo molto, però c'era proprio questo lavoro di regia e di montaggio che prima non c'era. Quindi secondo me forse è una questione proprio di autori, cioè c'è l'autore che magari ha capito che deve fare così anche per comunicare meglio, torniamo di nuovo al discorso di prima, la scena, comunque quello che vuole dire, e poi invece c'è tutta la tecnologia del mondo che magari non ti riesce, magari c'è dietro uno che non sa fare il regista di quella scena, che non te la fa in maniera efficace. Ma infatti sarebbe bello se Sony prendesse i sceneggiatori e gli autori di Telltale, li portasse dentro Quantic Dream sì, perché è vero, perché poi alla fine la limitazione più grande della, almeno per quanto riguarda Walking Dead, è proprio quella, cioè che comunque in un certo senso, sai, graficamente era un poco limitato, no? Cioè comunque ti dava sempre quell'impressione. No, quello poi è un problema oramai storico di Telltale, che non si vuole proprio assolutamente allontanare da quel motore, anche per ragioni strategiche, che sono quelle ovviamente di avere il più ampio numero di dispositivi raggiungibili, anche se Life is Strange in realtà che non è un capolavoro dal punto di vista tecnico, però c'ha una cura maggiore sulle luci, sui flare, sulla fotografia, perché è fatto con Unreal Engine, roba del genere. È comunque un prodotto che da un gradato in una certa maniera è tranquillamente portabile anche su tablet, quindi è proprio una scelta quella tecnica, quella dei Telltale, che un giorno affronteremo e cercheremo anche di rispondersi sul perché insomma, in realtà. Però ecco, dal punto di vista della gestione della manualità, dell'usabilità, dell'attenzione spicciola, diciamo così, forse Beyond da quel punto di vista rimane ancora il punto focale, tant'è che se torniamo a The Walking Dead nel primo episodio della seconda stagione, quando Clementine deve curarsi, quando deve curarsi, diciamo così, senza dire il che cosa fa, perché magari qualcuno ancora non l'ha giocato, in realtà riporta alcune meccaniche concepite da Quantic Dream, però Quantic Dream su quello riesce meglio, tanto quanto fallisce ovviamente su un discorso strettamente narrativo, perché secondo me lì c'è veramente una persona in generale che ha la presunzione di saper fare cose che non sa fare, cioè questo è un po' un discorso di fondo. Però comunque, ritornando un po' al discorso di prima, insomma, io ti ho fatto sta domanda perché in realtà, come lo dicevo prima, insomma, l'ho provato a dire diverse volte nei ragionamenti che abbiamo fatto di dietrologia videoludica, secondo me sia Microsoft che Sony, anche se per due ragioni diametralmente opposte, sono interessate a questo tipo di discorso. Diciamo che Microsoft è interessata al fatto strettamente multimediale in generale, perché, cioè, come abbiamo detto pure con Alex nello short precedente, ha talmente puntato sul fatto che la console sia console, però è televisione, che però è questo e però quell'altro, che quindi ovviamente c'è questo incrocio cross mediale, no? Dove ti dicono sì, c'è Halo, ma Halo è anche il serial televisivo, e poi ti fanno uscire il gioco che io continuo a non ricordarmi come si chiama, Quantum Leap, qualcosa del genere, Quantum Break, ecco come si chiama. Ah, quello lì del sì, molto interessante. Che anche quello dei Remedy, che uscirà fra 45 anni, pure sì, quello sì. Sempre il solito discorso di Alan Wake, che anche quello è connesso a un serial televisivo, e che non sappiamo poi in che maniera tutto questo verrà poi incrociato, no? Quindi loro fanno proprio questo discorso cross mediale, mentre che Sony invece secondo me crede proprio in questa forma di intrattenimento, dove io ti ho fatto la console che è per il giocatore duro e puro, ma se il giocatore non duro e puro, quelli che gli piacciono le serie televisive, che gli piace il cinema, non ben genere, si può avvicinare, perché vi stiamo offrendo anche questo. Sì. No, scusa, no, stavo dicendo, a proposito di questo, ti ricordi che ci hanno provato anche in passato in maniera forse un po' meno convinta, o forse non ha funzionato perché i tempi non erano maturi, quando usciva episodi, oppure Alone in the Dark, quello diciamo proprio detto nuovo, che, oppure addirittura Lost, che replicava la cosa del serial, vabbè. Del concetto del serial televisivo, sì, ma ce ne sono stati vari dei giochi che... Sì, però tornavano un po' indietro, cioè Sin fece solo il primo episodio, Alone in the Dark poi uscì tutto insieme, soltanto adesso si sta vedendo. Però se ricordi magari quel drittone che, di Ron Gilbert, che anche in maniera un po' provocatoria dice da ormai da 20-25 anni che la durata giusta di un gioco è di mezz'ora, perché uno si deve mettere vicino come fa un telefilm, come quando vedi un telefilm, si gioca, si mette sulla botola e gioca e poi finisce. Ovviamente è un po' estremo, cioè secondo me mezz'ora no, a parte che poi i telefilm durano 40 minuti 45, 60, sì. Esatto. E quindi vabbè, se, a meno che non guardi Sherlock, che dura anche di più, esatto. Però diciamo che secondo me assolutamente sì, cioè nel senso che è chiaro che la nuova, una delle nuove che poi già è un po' in divenire, che già esiste, del nuovo modo per intrattenere, un nuovo tipo di intrattenimento è quello, però è sempre, vabbè, pur essendo sempre legato ai videogiochi, sicuramente si sposa molto alla fruizione, come ti devo dire, rapida, che uno non ha tempo, adesso dopo 6, 8, 9, 10 ore di lavoro mi metto qui, faccio un episodio di Life is Strange e poi me ne vado a cuccare, cioè, diciamo, no? Quindi sì, è una cosa diversa. Io quando vedo giochi di 30 euro non ce la posso fare proprio nella vita, quindi capisco l'esigenza pure, dice, di un certo pubblico di fare ma loro ragionano anche da storyteller, no? Quindi, cioè, nel senso, in realtà quello, sì, che quello che vogliono fare, che hanno sempre voluto fare, infatti secondo me Ron Gilbert, ecco, io prima ho nominato Shenmue con Giuseppe Saso, l'altro giorno discutiamo fra di noi che comunque è stato il gioco che ha aperto un po' la pista agli Heavy Rain, ai Fahrenheit, perché ha comunque, diciamo, in maniera ibrida e protozoica, diciamo, inventato un meccanismo che in effetti poi tutto sommato non è sbagliato, ma comunque secondo me, cioè, sono i giochi di Ron Gilbert che hanno aperto la visione proprio al gioco narrativo per come si sta sviluppando oggi, e che allora comunque quello potevano fare, no? Quindi era un po' un discorso, però secondo me sta cosa comunque di creare appunto questa sorta di sottogenere, continuo ad avere questa sensazione, perché in realtà le realtà che io in questo momento vedo protagoniste sono gli indie, a volte anche per ragioni di praticità o forse per dei paraculaggi, cioè comunque fa il gioco esplorativo dove magari c'hai una buona scrittura sotto, però non devi costruire un prototipo di gameplay particolarmente avanzato, o basta che comunque ricostruisci graficamente quello che tu vuoi riportare in un motore come Unreal Engine o come, insomma, tutti gli altri che adesso iniziano ad essere messi a disposizione anche gratuitamente, insomma si semplifica, e produttori come appunto Sony che comunque ci investe, perché pure Until Dawn, cioè alla fine è un altro prodotto che fra un po' esce e che probabilmente se ha successo, perché funziona ritmicamente, funziona dal punto di vista della scrittura, roba del genere, potrebbe anche essere la morte, tra l'altro, pure dei Quantic Dream, perché insomma io vedo che Sony ci ha un po' smesso di si congeda, ha smesso un po' di guardare da quella parte, perché ha detto vabbè, una, vabbè, due, vabbè, mi ha detto un po' cazzo, eh sì, vabbè. Quindi, ecco, insomma, secondo me, appunto, sono questi qua, questi due momenti importanti. Che poi, tra l'altro, proprio parlando anche del, mi ricollego anche per il terzo punto, perché qui forse ci facciamo entrare anche gli indie. Perché intanto diciamo che il mercato videoludico in sé è un po' una figura, come posso dire, un po' astratta. Diciamo il mondo videoludico, il mondo dei videogiocatori, diciamo che è un po' conservatore di suo per certi versi, ed è dall'altra parte invece è anche curioso e quindi esplora. Però diciamo che tende a voler difendere, diciamo, determinate posizioni che sono quelle, appunto, del videogioco in quanto tale, e questo un po' crea secondo me a volte anche un po' delle inutili schermaglie, appunto, nelle discussioni come quelle, appunto, che ci sono state sul discorso se certi giochi sono o non sono certi giochi, ci sono giochi o non sono giochi, appunto. Però poi alla fine vedo che continua questa tendenza sul discorso dello story driven, e a quel punto mi domando, però, visto e considerato che appunto alcuni stanno un po' estremizzando questo concetto, non si rischia poi di arrivare veramente a concetti estremi dove veramente il concetto interazione comincia a venire talmente meno che alla fine comincia quasi non avere neanche più senso, e quasi si dà ragione, voglio dire, ai detrattori che criticano magari il sottogenere nascente, a quello quando dicono perché non ti guardi un film a quel punto, che cazzo c'è, nel senso, che odiani a far pad in mano, che sì. Ma vabbè, io, guarda, te l'ho detto, sono contento come una Pasqua di questo sottogenere, cioè è sempre stato, ma anche come sviluppatore, io, vabbè, chiaramente forse non sono tanto interessato alla regia, più che alla scrittura, quindi più che fare la roba, ecco, molto molto costosa, molto cinematografica come vuole fare David Cage, mi interessa più il discorso della scrittura. Però io sono proprio contento, voglio dire, che finalmente abbiano trovato un mercato questi giochi qui, perché poi questi tentativi che c'erano stati in passato o non erano convincenti o non erano convinti quelli, cioè il pubblico, ma si vede che forse stiamo cominciando a maturare almeno in quella direzione lì, intendo. Quindi non ci vedo niente di negativo, cioè va bene, perché l'importante è che non vampirizzi poi tutto il resto, cioè, ma non credo che succederà, perché più passa il tempo più, per esempio, anche questo fenomeno indipendente che ormai è da parecchio tempo che c'è, ha aiutato moltissimo a far prendere piede questo tipo di concezione, così come ha fatto anche tornare i pixel, i platform e tutto quanto. Cioè, secondo me alla fine ci sarà sempre questo genere e non c'è un vero e proprio rischio. Cioè, voglio dire, chi se ne frega se non è un videogioco? Cioè, non è importante, secondo me. Così come non è importante se è un'avventura grafica, sai, quando parlavamo, ma questa è un'avventura grafica o no? Che fa? Cioè, chi se ne frega? Non so se siete d'accordo su questo. No, io di mio sono assolutamente d'accordo, la penso al 100% come te. Nel senso, non c'è proprio neanche da discutere su questa cosa, abbiamo una visione estremamente similare. L'unica cosa che mi preoccupa invece è il fatto che, ecco, c'è poi un impigrimento, no? Quindi quando poi le cose tendono ad estremizzarsi, c'è una sorta di impigrimento, perché una cosa è fare The Arrester, una cosa è fare Gone Home, e una cosa poi è fare una serie di repliche che sono sempre le stesse, magari con atmosfere diverse, invece che fare, che ne so, Soma o fare Outlaw. Outcast, scusa, che comunque, voglio dire, alla fine in realtà nello stesso meccanismo, quindi su un gioco che poi fondamentalmente è esplorazione e narrazione, alla fine ci aggiunge magari l'adrenalina che gli altri magari non... Aspetta, ma non... questo Outcast stavo parlando di quello di cui sto pensando io? Sì, scusa. Sì. Ah, ok. No, penso sì, penso sì. Del giornalista che entra nel manicomio, insomma, per capirci. Ah, ok, no, allora un'altra cosa, no, niente. Ok, ho capito. Posto. Insomma, vabbè, tu dici quindi non c'è sto pericolo, perché sai, io ho visto che c'è un po' un impigrimento ultimamente. Ma come funziona una cosa? Sì, è il solito discorso delle mode, cioè nel senso che quando poi comincia a funzionare una cosa, comincia una... Beh, per esempio, mi ricordo un esempio, vabbè, forse non è recentissimo. Comunque, dopo che è uscito The Walking Dead, c'è stata stava uscendo in quel periodo anche Cognition, e fecero un quarto episodio con una specie di scelte narrative che non c'erano prima, sostanzialmente molto appiccicate, come se dice, vabbè, adesso facciamo le scelte perché proprio si porta, no? E non funzionava bene, cioè non avevano colto proprio l'essenza, che non era quella del gioco del Tell, erano peraltro, quindi non aveva funzionato. Secondo me poi, cioè, alla fine speriamo che vinca la qualità in tutto questo. Io, per esempio, guarda, non so se... Vabbè, comunque il gioco si chiama Outlast. Outlast è quello... Ah no, perché Outcast è quello... Perciò dicevo, ma perché stai citando l'RPG di Unifa? Outlast, ho capito. Vabbè, purtroppo c'è l'Ictus, c'è la vecchiaia, c'è un po' di tutto. È quella di PewDiePie, per intenderci, Outlast. Sì. Che genere PewDiePie. No, d'accordo. Io non so se vado off topic, però questa cosa la volevo dire assolutamente, e cioè che... la forza della scrittura è una cosa che mi fa molto piacere che sta uscendo fuori ultimamente. Per esempio, io ultimamente c'è un gioco che si chiama Lifeline, che ho visto su All Games Italia recensito, che non è grafico, cioè è un'avventura, diciamo, testuale, però non è, sai, hai presente le avventure testuali, vai qui, vai lì, no, non è niente di tutto questo, è come fosse un lunghissimo dialogo ad albero fra te, che sei il giocatore, ma sei anche un personaggio del gioco, e il protagonista, cioè praticamente puoi scegliere solo A o B, no? Praticamente tutto il gioco così. Detto così sembra una scemenza, invece è bello, cioè nel senso che la scrittura riesce a tenerti su per almeno una buona parte del tempo, poi vabbè, c'è una deriva un po' così, soltanto facendoti una struttura d'albero, che è una cosa che si fa continuamente nelle avventure grafiche, no? Se ci pensi, però hanno preso una cosa piccolissimo, un elemento piccolissimo dell'avventura grafica, hanno buttato a fare un gioco intero basato unicamente su questo. E allora come fa a essere divertente, come fa a essere bella una cosa del genere? Perché dipende da come è stato scritto, eppure To The Moon, possiamo fare lo stesso discorso, cioè, o di Rest, eppure, no? che a me non piace, ma non perché è una strada dritta, ma perché comunque vabbè, lì a livello di narrazione non mi è piaciuto, lasciamo stare. Quindi insomma, secondo me sì, che tu per rischi intendi comunque che magari fanno sempre la stessa cosa con lo stampino. Questo è un po' il discorso. Beh, diciamo che gli indie un po' ce l'hanno ultimamente sto pallino, come esce un fuori un qualcosa che comunque ha un successo, o perlomeno comunque, cioè, tipo Braid, attenzione. Cioè, quando è uscito Braid, poi si sono visti i vari Limbo, i vari questi qua. Sì, ma adesso per esempio va tantissimo di moda, cioè fai quei giochi di sopravvivenza dove devi abbattere gli alberi, costruire le case e sopravvivere alle gente che ti uccide, sai? Però voglio dire, questo è proprio un atteggiamento. Forse è una cosa inevitabile, cioè si deve esaurire un attimo il filone e poi dopo si assesta magari, no? Cioè, pure questi qua di sopravvivenza, sì, ho capito. Sì, in effetti sono pochi poi quelli validi, però una volta che è finito questa esasperazione, forse poi dopo ne esce buono, no? Una cosa di questi, probabilmente. Poi però gli indipendenti hanno questo vantaggio che possono fare un po' quello che vogliono, buttano su Steam, vediamo come va, no? Non c'hanno qualcuno a cui tenere conto, no? Finanziatore. Ok, va bene, io diciamo così che quelli che erano i tre punti, sai, che mi incuriosivano particolarmente, visto e considerato che comunque in uno short, sai, è difficile poi fare un approfondimento radicale come magari ci piacerebbe fare, e siamo già insomma nel tempo insomma che ci siamo più o meno prefissati. Se volevi aggiungere qualcosa, perché magari non ho inserito all'interno di questa discussione magari uno spunto che vuoi mettere di tuo, se no andiamo poi L'unica cosa che volevo dirla prima, mi sono dimenticato, cioè che io non conosco molto bene l'universo delle visual novel, per esempio, però questa cosa qui, questo sottogenere andava molto forte in Giappone già da parecchi anni, noi non lo conoscevamo proprio, anche perché non veniva neanche tradotto in inglese. E adesso stanno forse uscendo un pochino più fuori, sempre perché gli indipendenti, sempre perché Steam, magari traduzione anche amatoriale e tutto. Ricorderai quando è uscito anche il Nintendo DS, avevamo un pochino, sai, avevamo quella sensazione che fosse qualcosa di nuovo che stava arrivando, no? Io mi ricordo quando ho giocato a Another Code, no? Mi sembra si chiamasse, avevo veramente, cioè, quella sensazione di freschezza, una concezione proprio diversa, che non era occidentale evidentemente, ma era qualcosa che magari c'era nell'area già in Giappone da un po' di tempo e che noi non conoscevamo. Dava proprio la sensazione di freschezza, oppure Hotel Dusk, io impazzivo perché potevi prendere gli appunti col pennino, no? Scrivendo proprio, vivere questa specie di libro interattivo, perché proprio mantenevi il DS come un libro, era bellissimo. E quindi niente, secondo me, questo che voglio dire che secondo me nell'aria ci stava, cioè c'erano già queste cose qui, solo che ancora dovevano arrivare perché mancava forse la distribuzione giusta, non lo so, non saprei dire. Però questo dà un po' la conferma che non è poi The Walking Dead, poi tanto, cioè c'è sempre stata un po' sta cosa, solo che poi il pubblico di massa ha risposto per soltanto alcuni titoli, però un po' c'era sicuramente questa volontà di così di narrare su tutto, cioè più di qualsiasi altro elemento videoludico. Sì, c'era già un pochino anche prima, per fortuna. Sì, ma in realtà le console, i computer sono strumenti e se li puoi usare per giocare a ping pong, li puoi anche usare come strumento di narrazione, quindi questo non c'è proprio niente da discutere su questo. Va bene, Cristiano. Sì. Intanto ti ringrazio sempre per la tua disponibilità qui a DVL. Grazie, anche se però devo dire una cosa, scusami, ma mi stai facendo fare più puntate di dietrologia che di Calavera Caffè. Ma questa non è colpa mia. Lo so, hai ragione. Per aver polemizzato un po' di astio, anche qui lo portiamo. Ma infatti, passiamo. Vabbè. Sempre colpa del Bertoni, ricordo. Sì, grazie comunque per l'ospitata. E soprattutto buona estate e buon lavoro per tutte le cose. Ciò che verrà. E poi, tanto appunto, probabilmente ci risentite presto, non su questo canale, ma su quello là di lato, quello dall'altra parte, insomma, Calavera Caffè, che ci stiamo lavorando sopra, così vi tiriamo fuori una cosa caruccia per l'estate, così siete tutti contenti. Speriamo. Supportate, okay? Calavera, comunque. Sempre, mandateci i soldi. Ciao.